Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Ieri sera ci siamo domandati quali misure a basso costo possano sostenere il fotovoltaico e accompagnarlo fino alla grid parity, considerato il fatto che il quinto conto energia si esaurirà, secondo un po' tutte le stime, nell'arco di qualche mese. A quel punto il settore, il fotovoltaico, si troverà a dover transitare quasi all'improvviso da uno dei contesti più sussidiati al mondo, con tutti gli effetti di rialzo sulla bolletta elettrica di cui abbiamo parlato tante volte, a un sistema quasi del tutto privo di sussidi. Rimarrebbe in pratica la sola detrazione fiscale del 50%. Il GIFI, il gruppo imprese fotovoltaiche italiane, ha elaborato in vista di questa situazione una serie di proposte, diciamo così, per smussare questa transizione dolorosa. Riduzione della burocrazia, sgravi fiscali per chi investe nel fotovoltaico a vario titolo e regole che possano favorire contratti bilaterali tra privati per la produzione e il consumo in tempo reale dell'energia prodotta dal fotovoltaico, sgravando questi contratti dal pagamento degli oneri di sistema che sono legati alla trasmissione e al dispacciamento dell'energia, che in questi casi non avverrebbe. Di tutto questo abbiamo parlato ieri con Valerio Natalizia, presidente del GIFI, che è tornato a trovarci questa sera. Buonasera Natalizia. Buonasera. Dunque Natalizia, per superare questa fase che sarà certamente difficile, certamente possono servire le misure che voi avete indicato, ma sarà necessario anche che degli sforzi vengano fatti da parte delle imprese italiane che operano nel settore del fotovoltaico. Anche perché, su questo ci saranno opinioni diverse naturalmente, ma un sistema molto generoso di incentivi probabilmente non favorisce la selezione delle imprese più competitive, lascia spazio un po' per tutti. Che cosa devono fare oggi le imprese fotovoltaiche italiane di fronte a questo scenario in drastico mutamento per attrezzarsi e farsi trovare pronte? Diciamo i cambiamenti dell'ultimo periodo hanno portato ormai di fatto a un allineamento del sistema di incentivazione in Italia con quelli appunto che sono i valori medi europei. Quindi con il quinto conto energia non c'è più questa grossa differenza che, come ricordava appunto lei, in passato c'è stata, ha portato anche a speculazioni e a consumare la dotazione che c'era a disposizione un po' troppo rapidamente, insomma. Assolutamente. Credo che, ecco. E quindi adesso le aziende italiane devono confrontarsi a livello nazionale ma anche internazionale, non avendo più come riferimento principale un mercato italiano che comunque come volumi andrà a diminuire. Quindi cosa devono fare? L'industria sicuramente deve migliorare i processi di produzione, quindi anche i processi che dovranno portare per forza di cosa a un abbattimento dei costi e quindi a un abbattimento dei prezzi di vendita, e in generale invece tutto il mondo che è intorno alla produzione, quindi parlo della distribuzione, parlo dell'installazione, parlo della progettazione, dovrà anche in questo caso creare delle efficienze in maniera tale da essere maggiormente competitivi. C'è un problema competitività, secondo lei, delle industrie fotovoltaiche italiane? C'è un problema competitività soprattutto nell'industria che riguarda la produzione dei moduli, ma è un problema non italiano, è un problema europeo, perché i maggiori player mondiali sono oggi asiatici. Invece in altri mercati, come per esempio quello dell'elettronica, a livello europeo e anche italiano ci si difende molto bene, e le prime aziende appunto sono proprio europee. Quindi laddove c'è comunque una specializzazione più spinta, un'innovazione più spinta, un anche know-how che è dovuto proprio alla ingegnerizzazione di questi prodotti, ancora l'Europa e anche l'Italia riesce a difendersi molto molto bene. Ecco, mi pare che oggi si chieda una maggiore capacità di gestire l'energia a chi la produce col fotovoltaico e un po' anche con tutte le altre rinnovabili elettriche. Volevo capire se questo può essere un punto critico per le industrie fotovoltaiche italiane, che finora non hanno avuto questo problema sostanzialmente. Parlo appunto degli sbilanciamenti, dell'autoconsumo e quant'altro. Assolutamente sì, perché cambia proprio il paradigma di riferimento del mercato fotovoltaico. Cioè, mentre prima si era orientati soprattutto a sfruttare un prodotto che rendeva molto, quindi a utilizzare il fotovoltaico quasi come se fosse un investimento finanziario. Certo. Oggi parliamo di un investimento in energia elettrica, parliamo di risparmio su quelli che sono per esempio i costi della bolletta elettrica, parliamo di autoconsumo, quindi di uso più efficiente dell'energia, e in prospettiva parliamo anche di sistemi molto più intelligenti che andranno ad integrarsi ad altri sistemi energetici. Ecco, queste competenze Queste competenze probabilmente devono essere incrementate nell'industria fotovoltaica italiana. Questo volevo dire. Devono essere incrementate, ma in alcuni casi ci sono già, certo, e possono essere anche utilizzate meglio rispetto, certo, al passato, perché si andrà a competere su terreni diversi rispetto appunto al mero ritorno economico. Ultima domanda, si parla del dumping cinese, che cosa ci può dire? Cioè sul fatto che la Cina sostanzialmente stia barando, tenendo artificiosamente bassi i prezzi del fotovoltaico per eliminare la concorrenza in giro per il mondo, questo un po' è il concetto. Sì, su questo noi ci siamo espressi in maniera abbastanza chiara, perché se da un lato siamo assolutamente... Perché voi da un lato ne beneficiate, dall'altro molto meno, no? Insomma... No, è chiaro, allora, se si fa un discorso di costo di sistema e quindi prezzo di vendita, è chiaro che una competizione globale che porti a un abbassamento dei prezzi, come è avvenuto negli ultimi anni, è un vantaggio indiscutibile per tutto il settore. Quindi prezzi bassi di vendita dei sistemi portano ad avvicinare la cosiddetta grid parity. È chiaro che questo deve essere fatto però nel rispetto delle regole, e quindi deve essere fatto anche tenendo conto di quello che è una competizione, diciamo, leale. Quindi c'è un'indagine dell'Unione Europea che dovrà accertare se veramente ci sono state queste azioni, tra virgolette, poco trasparenti, che hanno portato... Cioè finanziamento da parte dello Stato, sostanzialmente, delle imprese che in questo modo possono vendere sotto costo. Sì. È chiaro che anche lì mi sentirei di dire che ci potrebbero essere anche delle differenze tra produttore e produttore, perché parliamo di produttori asiatici, ci sono dei colossi che probabilmente... hanno sia management europeo o americano, hanno delle strutture ormai internazionali, mentre poi ci sono invece dei produttori cinesi che potrebbero aver fatto invece azioni di diversa natura. Quindi aspettiamo fiduciosi che si faccia chiarezza su questo tema. Grazie Valerio Natalizia. Grazie a lei. È tutto, a lunedì.